ma no, era qualcosa. L'ultima volta che ho fatto spanking e mettevo tipo la parte finale just for fun e mettevo un suono diverso ogni volta che venivo colpita e quindi e cercavo di renderli armoniosi. Estremamente unfun dall'altro lato, io questo è estremamente unfun dall'altro lato. No, dall'altra parte c'era un apprezzato. E c'era anche un'altra persona che ha apprezzato la randomness, quindi. Non ho idea di cosa succede. Pio. Manda il gesto di un bacino, invece di darti un bacino. Hai vinto. Ho vinto. Abbiamo vinto. Dobbiamo stare dentro. Nessuno ha fatto la battuta. Non è un'anda. Interrogo reale. No, è una papera, fa flap flap. Flap flap! Quando ero piccola c'era tipo un tipo che non so per quale motivo stava mostrando una mantide religiosa davanti a un sacco di bambini, non so se fosse tipo uno spettacolino. Ma c'erano tutti i bambini che lo guardavano e dicevano: ah, una cavalletta, ah, un grillo. Come votano? Poi io arrivo lì, ecco, no? Una matita religiosa e i miei genitori mi hanno presenziato per sempre su questa cosa, sempre lo faranno. Ma perché avevi ragione? Perché i miei genitori odiano gli sfoggi di erudizione che mi caratterizzano, a quanto pare. Scusate se sono estremamente colto. Scusate se ho letto Scusate. L'avevo letto il libro delle mie ricerche, volume 3. Un libro completo delle mie mani. Comunque non voglio andare completo. Cosa mancava al Ted Diggle? No, cioè no. In realtà era molto completo. Ti hai migliorato. Grazie. Ti voglio bene. Rattle snack. Penguin. Ursula K. Le Penguin. Pumpkin. Potemkin. Kropotkin. Well, actually, Kropotkin. Kropotkin. Bread Santa. Give me like your bread. Devo comprare il pane. Pane. Pane. Vuoi il pane? Pane. No, devo comprarlo. Te lo vendo. Oh. flashback, tipo... un flashback ai primi anni 900 baratto. Ma... che animale sei tu? Non ho idea. Tutte le risposte sono giuste, tranne Homo sapien. Homo sapien. Homo ta... No, Homo. No, Homo. Io tanto manchi, no, Homo. Femminili singolari. Pancino. Tino. Vino. No. Dino. Filippi, facciamo la nanna. Facciamo la nanna. No, non te lo faccio. No, è vero. Bisogna di aiuto. No, no, ok. Consulting the official Tokipona book. Pali? Mioli Nessina. Mioli Nessina mute mutea. Trans. Sina. Tardi. Melisueli Ponalukin mute. Un fa. Mangio il nasino, finisce tutto. Oh no! Finisce tutto. Mi è stato mangiato il nasino. Sì. Ah, non giusti. Fine di tutto. Non giusti. tutti andate un po' a fare vetti quadratino metti che tempo oh è tornato è tutto bagnato da. Cioè no, in realtà non proprio oh. Che succede, botta? Non è vero, sono top. Non dire le bugie. Non posso dire le bugie, botta. Aspetta, questo è troppo alcol per il primo episodio. Perché? Miau miau miau. Come sono passati 20 minuti? Yeah.